prego, perché vuol darsi lo stesso denaro. Quello è un vaso in bianco, eh. Sono apparecchi, sì, ho capito, sembra un apparecchio marino quello. Sì, ce l'aveva Agostino, un amico mio, Agostino ce l'aveva, e l'aveva venduto. Perché poi mi aveva venduto anche, aveva una Grand Prix nuova nuova ancora dentro la busta, altra roba, dopo che ha abbandonato la frequenza, mi ha detto, se no vuoi te la vendo. E vedi, ma quanto me la dai? Ah, dammi 20, l'ha preso, me l'ha regalata, ha approfittato, ma di quella venduta. Una Grand Prix di quelle grandi, lì. La dovevo piazzare. Poi questo qua di Usi mi ha chiesto se la prendevo. Vabbè, cosa mi dai? È nuovo, proprio della busta, ancora sigillata. E poi guarda, a Fusano le vendono su 45 euro, così mi ha detto dammi 40 euro, tra l'altro devi aiutarlo. Soprattutto lo usano bene FM, ma escono bene i furti, se la FM ti fa uscire bene, anche in lontananza, siamo noi che siamo usciati, che bisogna sapere usare le FM, basta chiudere lo squeeze, devono esserci persone che arrivano bene, tu come mulli ti aprono lo squeeze, si sente lo stacco, stacco e basta, una telefonata. so cos'è. Allora, l'M1000 ha praticamente dei trimmer dove si regola il palascolta. Sicuramente se il palascolta alto tu devi abbassare quello lì e si abbussa. VR2 e VR3. Allora dall'interno, che era troppo alto, e dovevi abbassarlo dall'interno. Ah, adesso si poteva regolare, si è reso troppo in fretta. Adesso va con sapore mi tocca 5024 maggio. Il suo baracchino con un microfono normale, è allucinante, ma è amplificato. Dove cassetto sei? Lo puoi mettere anche nel cassetto sforza usiti. Ah, già va bene. Secondo che macchina c'è? Ah, ce l'ha stretto. Troppo corto ce l'ha. La profondità sto dicendo non è molto profondo, mentre nell'asta è molto profondo, capito? Perlomeno nella peggio di mia moglie c'ha 206, mia moglie non è che sia profondissimo, rimane stretto e corto. L'unica cosa che devi fare è fare il buchetto dietro per fare passare i fili, boh, basta. Chiudi poi chiudi il cassetto e appuccio, non si vede niente. Prego. Buonasera Franco, ho parlato. Mi dici come la sto sentendo Gianni? Buonasera Franco, mi hai sentito dopo tanto. Prova a fare un passaggio. 1-5-4-3-2-8. Ottimamente Franco, va benissimo. Mi dici il segnale che sto facendo in QRP. il segnale 9.30 quasi. Ah, ho 3 watt, quindi va benissimo. Ok, tu 9.20, comunque l'altro amico molto più basso, non so dove sia. Avanti. La sorsa. Sì, S7. Santiago 7. E tu Gianfranco come mi ascolti oggi? Dici che non dicevo il checco. No, no, va bene, va bene. Va bene, solo che sotto sento un fischio, deve essere qualcuno là fuori. Sembrava importante, è sempre il 6-7. La sento anche io. Ma qualcuno sa per loro di mettere a portata, ma ci fa solo dire. No, non esiste. Non esistono più quelli. No, fidati. Ci sono ancora come importantisti. E basta che uno sia antipatico o cose, lo è, si rabbona. Boh, magari qualcuno che è talmente vecchio che si dimentica di che c'è il microfono sotto e tenta di entrare, non ci riesce. Ma penso che oramai non sia più epoca da portanti. E tu antenne dove sei messo, Gianfra? Ma adesso c'è una, sto usando una Mantova 1 delle di, ci avrà però 30 anni buoni, no no 30 no dai 25 sì sicuramente, però ed è messa ad appena 6 metri da terra, quindi bassissima, proprio pelo pelo. E vabbè, quel palazzo c'è alto. Ma il palazzo è alto, saranno esattamente 12 centimetri, perché è sopra un blocchetto. Cosa c'è da dire? Il palazzo 12 centimetri? Ma è... Sì, avanti, S9. Sì, capo. Perché non c'è, dai, gatto da sotto. Fai un nuovo passaggio. Sì, tieni un po' il rapporto, come 1, 2, 3, 4, 5, 6, S9 per te Radio 5. Guarda, lo switcher tu non me lo muovi neanche, non me lo muovi. Radio 3. Beh, sono spostando con 3 watt. 3 watt, l'antenna è sul terreno, io sono fuori Sassari. Già non sono dove ero prima, non c'è più nulla. Infatti ho visto che non c'era più nulla lì. Ciao Franco, che fine ha fatto? Sono passato lì, stavo andando a fare delle analisi lì, al laboratorio di analisi, sono passato, ho dato uno sguardo, ho visto un piantente. Allora, o si è trasferito, ho mollato tutto, dove c'è? Sei trasferito, dove ti sei trasferito più o meno? Sono verso Trauri e Monteoro, dai. Sarà buona, non ti disturbare, ripensi tu. No, no, già ce n'è. Ce n'è qualcuno. Radiamatore è un CB, però forse c'è solo un'antenna e basta. Ma probabilmente una Mantova in via di estinzione, perché non ho mai sentito niente da lì. E lì che ha la Mantova lo so anche, Volpe. Volte? Dove? Qui a Monteoro. Boh, non lo so, ormai non sente più nessuno, quindi. Vediamo un po' sotto, aspetta che forse è troppo basso questa affare, l'antenna è bassa, quindi ecco. Guarda sotto se ho migliorato un po' adesso, sulla media. Certo, è migliorato. Segnale è salito a 3, modulato 4. Visto, così si arriva S3 Gianni. Sono solo c'è un'impiesta ottica a pensare. Io come ti arrivo fra riassorso? Tu sei 9.5. 9.5 sei qua. Ma tu sei sempre segnato. È interessante non peggiorare. No, ma io non ci voglio attaccato, nel senso tutto liscio. Ecco. Oh, va bene, tu sempre, lo hai sempre avuto quel segnale lì. A me con l'altro che stavamo usando poco fa era tutto diverso, segnale e tutto. Questo è. Vabbè, questo è più serio, è K questo. Sì, infatti è sincero. Tre volte meglio. Va bene, Franco dove sta modulando? Franco, da Monteoro. Ah, Monteoro, ci sta. Ancora, non ho sentito più nessuno lì. No, esattamente tra Monteoro e Uri, non è esattamente Monteoro, se no ci avrei tanti di quei disturbi, non sentire un tubo. Però Sosso ce l'ho in linea ottica, Sosso Senuri soprattutto, Senuri proprio di fronte. Il Gianni, con quanto sta uscendo? 4, 5, 6? Io esattamente con 4 watt. Sei molto più vicino a me, no? 5 km più vicino rispetto a me. Poi, boh, non lo so, dipende anche dalla posizione ottica, diciamo. Sì, io penso che sono molto favorevole, tutta la zona della Marina, Senoli, Balisi, tutta la zona sia l'Isola Rossa, quella zona lì, sono tutto a favore, tutto aperto. Ma già tu non sei dove ero io, praticamente, sei nel suo quartiere. Io abito in via Mores, te lo dico tranquillamente, non c'ho problemi. Via Mores, lì, dove praticamente c'è la Meridiana lì di fronte. Ah, ma dove c'era via Mores, praticamente, dove c'era il mio grande amico che non c'è più. Sarebbe? Sì. Ore. K, esatto, Ore di fronte a me. Lui non abitava per mio amore, sì. Proprio di fronte a me. Sì, lo so. Allora ho capito anche qual è la tua antenna, la vedo spesso quando scendo, sento un'altissima, vedo il mare praticamente, con quella, tutto il golfo, tutto quanto, quindi non è neanche da fare il paragone, io il mare neanche lo vedo, neanche in cima all'antenna, a quella alta, non a questa bassa. Sì, ma magari se più favorevole per i paesi verso la 731 lì eccetera eccetera, ognuno ha le sue di zone, dove va. Tante volte solo la zona è un lineare naturale. Beh sì, e diciamo in diretta sento Olbia qualche volta, non qua ovviamente, un po' pochettino più su e Cagliari anche. Però non qua, qua non ci ho neanche provato, anche perché oramai non c'è più nessuno. No, già ci siamo, ogni tanto ci siamo, poi hanno fatto allungato questo canale vintage, che sul canale 20, fino a poco fa c'erano anche due radioamatori, c'era Fabrizio, c'era anche Marco Scorpio, anche Walter eccetera eccetera, provano le radio antiche eccetera eccetera. Sì, lo so. Vediamo se migliora con Sorso, c'è poco da migliorare qua, è salita qualcosa, mi dimentico sempre il nome, ha aumentato di qualche cosina o niente? Il nome è secondo il tuo. Ah, Franco, ok. Ehi, capo, te lo stavo dicendo, è uguale l'idea al tuo. Sì, che è aumentato. Sì, guarda, modulati vai a 6 adesso, sei salito ancora un po', sei salito. Vuol dire che sta saldando qualche padellino? No, assolutamente, ho pensato apparato e non, guarda, io non ho mai posseduto, cioè forse ho posseduto quando ero all'inizio un lineare da, cioè forse da 25 watt, mi è durato un giorno e si è bruciato. Lineari non ne ho, c'ho solo apparati e basta, ma lineari no. Ecco. E alla fine no, non ne fai niente, non è facile. Che io spesso non li uso lineari. Uso un po' di potenza di quello che c'è all'apparato e basta. Infatti. L'unica, beh, adesso l'ho abbassata a 5 watt, prima erano 10, adesso sono 5, chissà se mi senti ancora, non me l'avevo neanche accorto che l'ho abbassata a 5 watt. Cosa volevo dire? No, più che altro l'antenna che bisogna alzare, perché bassa, ma perché bassa, alzare l'antenna di almeno, dico poco, ma almeno 5-6 metri. Tutto lì, quella di Gianni invece è altissima. E diciamo che anche il palazzo, io ho preso un palo da 8 metri ma ne ho fatto salire solo 5, non è che si alza più di tanto, è il palazzo che alza, quindi in posizione buona. Sì sì, lo so, è altissimo. E niente, anche qua bisogna alzare invece con pali e chiaramente non è tanto agevole, anche perché le antenne sono tante, quindi non ho... questa qua diciamo è l'ultima nell'ordine di attenzione, ecco. Non ce ne ha fatti usare a 27, abbiamo capito. Ma poi con i venti che stanno girando, con queste atmosfere strane che ci sono in giro, turbulenze, trombe d'aria e cose, qua stai a stare l'antenna, poi lasciala stare come a futtidini. Io gli ho messo 9 tiranti e non ho fatto male, non mi si è mai mossa, ma grazie a Dio. No, io non ne ho tiranti, neanche uno. Sono tutte antenne libere, cioè pali alti ma liberi, sono autoportanti, sono un po' duretti anche da piegare perché sono d'almine, quindi ho tagliato la testa al toro, ho capito. E vabbè, io non gli ho voluto mettere il tubo d'acqua perché è troppo pesante, da quell'altezza se ne ingaggi fa danno davvero. Ho messo un tubo telescopico rinforzo all'interno, ci ho messo solo il terminale e il tubo d'acqua e basta. Tutto questo è telescopico, però ci sono dei tiranti che lo tengono, lavorano i tiranti praticamente lì. Oh, c'è KP2, ci sono dei cazzi, KP2, attenzione Gianni KP2. Ma dove è Modula? Muros. Un po' più basso il sorso, via. Vabbè, Gianni e Franco, vi saluto. Passo in quei detti che è già tardi per me. Non sono un animale notturno. Ci sentiamo alle prossime. Buona giornata, per domani. E se non ci sentiamo, auguri a tutti. Gappa, con sacramento tutto al 100%, con trabacco e buona giornata per domani. Avanti e entra ogni tanto a darci a fare cucù. Gappa che ci fa piacere. Avanti, Ofra. Ehi Gappa, ciao Franco, ce la riascoltiamo per il frutto, ne ricambiamo al 100 anche gli auguri, con tutto, ce la riascoltiamo. Ciao ciao. Vediamo un po' se c'è KP2, KP2 ci sì. Oh, ce lo siamo dimenticati, Fra, se sarà offeso. Ehi, sicuramente, sapevo di tutto. Ecco. Ho baciato un po', quindi. Questo sta salgando, adesso sta aumentando. Quello però è un apparecchio. Ciao. Mi mancano le ali. Io il mio l'ho venduto, lo sai. Perché? Io mi ero venduto. Perché? Perché questo amico lo desiderava, mi faceva piacere darglielo, lo desiderava tanto e era un una cosa sempre che aveva desiderato e alla fine gliel'ho dato. No, io sono nato una volta, io tanti anni fa ho nato, gemello di questo, però no, questo l'ho preso ma non l'ho più. Tu 14 c'hai? No, io sono 80. Ecco, io avevo prima, anche prima c'avevo 80 e l'ho venduto. Poi me ne sono pentito, adesso sto riuscito a ricomprarmelo, grazie alle nonne. Già capita qualche di un altro, magari più grosso, 44 magari. Vedi, è già, però questi sono più indicati anche per la 27, secondo voi già prendi quelli escono diversamente, quindi là, perché non sono fatti per la 27, mentre questi sono più indicati, escono migliori. E modificati sono, non è che quando escono dalla casa sono così, non ci vuole la modifica. Ma lo so, io l'altro che avevo era uguale, usciva benissimo lo stesso, usciva, era un gioiello. Questo non sembra che si stia comportando bene, lo stesso. Va bene così. C'è una modifica per farci tagliare un filo, tutti li modificano per la 27, tutti. Ma quindi è che almeno che sia qualche uno che gli piace tenerlo così, ma quasi tutti li modificano. Non lo so, quello vogliamo. È diverso, una cosa è sicura, che è diverso di uscire con un baracchino. Quello sì, ma dipende anche che baracchino è, dai. Io per dire c'è un baracchino serio adesso. No, ma anche il baracchino, se vedi, io ho con, se gli metto un diabino, un microfono, come si deve, anche lui esce bene, con. No. E sempre, la modulazione è sempre tutta diversa, è sempre una cosa, da questi qua. Perché tu, qualsiasi baracchino che metti, le modulazioni sono tutte diverse. E lo so, però questo qui ha una bella modulazione, è un microfono originale, non è che sia amplificata. Capo, no, sta uscendo bene, sta uscendo benissimo, però non è, tu mi dici che c'è il microfono originale, non è amplificata, ma per me è amplificata, è forse buco. C'ha l'apparato, c'ha un top down, si chiama così, che è una specie di processore, dai. Spinge un bel, correttissimo. Si è lasciato. Col processore già non credo già che spinge. Questo è un apparecchio americano. Gli americani lo sai che hanno pretese grosse, in base di così, alla grande. Quelli li fanno buoni, certo, anche i microfoni li fanno buoni. Ci sono tipo il Turner, quelle così. Hai visto quei microfoni tutti argentati? Quindi dice che sono un gioiello. Sidney, il Turner più 3 Sidney, quello lì è il migliore che c'è secondo me, esce più forte del Turner più 3, la voce più chiara, più forte, più calda rimane. L'ho visto un giorno, stavo per ordinare, perché me la sapevo. Ci vuole, a mandarlo da lì ci vuole più di istituzione che comprare. Non è quello, non è che a volte se ne tolgono la capsula la sostituisco, tu compri quel microfono perché è buono, perché c'è una capsula come si deve e si chiama la capsula, si fuzzina. Sì, anche se non c'è da aver paura, purtroppo. Magari oppure ti mandi un microfono diverso. Organizziamo. E poi alla dogana a volte bloccano tutto. Chiede a volte quando si ne ha perso apparecchi alla dogana. Oh, li bloccano e non se li fanno passare. E tanti sì. Questa volta gli americani ne ha un meme, ma un meme no. Ti perdi quando vai in quel bunker, bellissimo. C'era in terra, c'era da tutte le parti, negli armadi, c'era le vetrinette tutte piene, era un 300 lì. Me lo immagino che è una roba lì. E vabbè, lo vediamo a torre, facciamo un attimo, cosa dire. Uno che c'è la passione, ne prende di tutte le maniere. Due volte prima di stare all'aviatore era un grande CB, ma dico grande perché si facevano le gare allora, e facevano le gare con cosa, con Vittorio Giove, a chi arrivava più forte a Badisi, a Coso, a Urbia, a tutti questi posti così in Corsica. Già, papà, per fare quelle cose, perché le abbiamo fatte anche noi tanti anni fa, le abbiamo fatte con la Greppa che c'era qua, anche, arrivare alla curva, e ci volevano soldi a spendere per prendere la roba che si doveva prendere. Non so, poi tutto ci vuole su. Ma io ti dico che negli anni 70, 75, così c'avevo un bel giambaristo, non so se tu l'hai conosciuto, il Tamer P2, la Palmo, quello celeste con la gratta grigia, e un Egin quinto. E ti dirò che pompava forte. Non ho mai visto quello che stai dicendo, però non lo so, non l'hai avuto né visto addirittura. Magari c'è qualche radio buona. Allora. Oh, stavo guardando una cosa, ma lo sai di quale anno è quel cavolo di barattino? No. 1978. Sì, era anni 70, me lo ricordo. Cavolo, è grande, è anziano, bravo, ma è da 30-35 anni dovrebbe avere. E va sempre bene. Sta andando bene, oh, io non me l'aspettavo, quando me l'ha dato ho detto io tutto come se il bongo l'accendo, vedete che il microfono basso, e invece un cavolo, l'ho lasciato 10-20 minuti a saldare, ho lasciato, poi piano piano ho schiacciato il microfono, ho visto le parti che è andato, insomma, e sta funzionando, non me l'aspettavo. Vabbè, sono apparecchi buoni, magari con il cacciatore si può scaricare un po', ma tu come lo accendi, si riprendono tutte che non esca l'acido fuori. Non c'è niente perché l'ho aperto, ho tolto la scatola ed è bello, non è stato mai neanche toccato secondo me, lucido dentro, le saldature come è aggiustato, niente, non c'è niente, è bello, nuovo, lucido dentro. C'è tutta la fila dei quarzi, quanti canali c'ha? 40. No, non è acqua. Non è acqua, come è possibile? In quegli anni lì facevano un quarzato. Ne ho visto uno solo, e non ce n'è altro, non è altro. Ma strano. Vabbè, comunque, prima facevano una fila di quasi che era di recensione, una fila di quasi che era di trasmissione, e tu potevi intercambiarli quasi, se volevi mettere il canale 80 che mettevi l'80, tu devi prendere il 40 che mettevi l'80, E che se si facevano anche la corsia esterna per cambiare il canale. Ecco, sì, lo so, perché io ho visto il faccio 2030, l'ho visto, ed era quarta, e ci aveva due file di quarto, come stai dicendo tu, ci aveva. Infatti quando cambiavi i canali dovevi cambiare il quarto. Erano grigi e neri, me lo ricordo ancora, c'erano grigi o neri? Io li avevo tutti grigi, il faccio 2030. Sì, sì, c'erano anche neri comunque. I canali alfa vendevano, allora la GBC chiedeva il canale di ricezione non è stata in missione, 1400 di dati la frequenza e loro si davano i canali. Sì, però questo l'ho aperto per vedere se riuscivo a aumentare la modulazione e invece non mi sono fidato e non l'ho toccato. Beh, se non lo conosci, non ti cerchi il manuale. Infatti non lo conosco e non l'ho portato per quello, e l'ho rifiuto. Poi ho visto dentro, io pensavo che era tutto messo male, invece no. È bello, sembra nuovo, nuovo uscendo dalla fabbrica. Tutto bello lucido, bello, proprio pulito. Grazie, a te. Vieni qua, ti dice, vieni qua, ti dico quello che ho fatto. Sono andato, se lo sai. Per buttarlo via, se no lo stavo già buttando. Ma gli ha ripagliato, ti la regalerò. Vabbè. Salviamo il salvabile, no? Infatti. Vediamo cosa possiamo fare, no? Se farlo uscire migliore. Ah, ce ne sono anche in Piazza del Senso, qua se ne buttano apparecchi, cibi, baracchini, portate, io c'è tanta roba là. Ah, beh, gente magari che ce l'ha anni e anni e anni e ci buttano via tutto, magari non sanno cosa facciamo, se c'è un rampa. Sai quanto ne trovava Mario quando lavorava nella testa urbana, Mario Masseri? Ha trovato portatili, stazioni fisse, di tutto. Siete che sono in strada, magari è morto e i genitori oppure i fratelli non sanno cosa farci, i miei figli hanno scappato di tutto. Allora, o è qualche tecnico che se ne è sbarazzato? Un tecnico non lo credo, ma chi ma le maricane si possono indicare. Sì, ma se ne vanno in pensione magari o muoiono in famiglia di rampa. Ne aveva trovato due con un amico che erano due Intec 430 mi pare. Poi si è andati a un amico, li ha aggiustati, due cassati, due fili staccati e stanno andando ancora. Io lì quando ero a Cosa, a Pistola, facevamo lì alla testa urbana, a Pistola, e trovavo un bel computer. I computer che ci buttavano lì in quel paese erano ricicliati. Sai perché? Anche se sono tonti, non lo sanno, in realtà, perché la base è stata lampare tutto. Infatti. Infatti come passava lo mettevano a posto per mettere il foglietto, mettevano in gabbia e li mettevano e li portavano via gli autisti. A proposito di studiare queste cose qua, mi sono comprato la macchina digitale, la macchina fotografica, la Canon. Questa è una cosa complicata da sentire, io ho sempre avuto la passione della fotografia, ma ultimamente sono uscite queste digitali, quindi quella pellicola l'ho dovuta mettere da parte, anzi non ho messo da parte due, erano tutte due le ultime macchine, una era un'Olympus e l'altra era una Mamiya professionale. Io mi sono preso questa qua. Ma nemmeno a paragone con quelle che c'erano più, ma quelle di prima erano più malleabili. Prendevi, giravi una ghiera e regolavi. Queste qua devi stare entrando nel menu, sistemare tutto, farlo scorrere, trovare la voce giusta, però solo per il sistema era stato sino alle 2 di notte. Tu devi pensare una cosa, quando prendi una macchina rapida del genere è come ti stai comprando il telefonino, cioè, tu devi imparare prima e poi lo devi usare. Sì, è vero, lo devi studiare proprio. E poi queste qui, vabbè, io ho il Galaxy 4, quindi anche quello lì non è che sia tanto masito. Comunque, piano piano, guarda, ci ho messo 2 giorni sono riuscito a imparare tutte le funzioni, però si è dovuto, la devi usare molto meglio per capirla. Lo so, perché io ho detto, cioè, ho preso un telefonino ed era all'inizio era un po' di fastidio, non l'avevo mai usato, così. E adesso invece mi viene tutto in automatico, non è, e poi alla fine non era difficile, era facile. Sì, io per dire ho fatto l'impatto direttamente dal telefono a tasti a quello digitale, io non avevo mai avuto digitale, sono passato direttamente all'S4 e adesso lo faccio tutto facilmente, ma all'inizio mi sembrava una cosa fuori dal normale. All'inizio mi partivano le telefonate e non riuscivo a bloccarle, figurati. Invece adesso sono un'altra cosa, adesso come se ti faccio una telefonata riesci subito a bloccarla, perché so già l'andato, come te lo, me lo mollo dalla faccia direttamente, riesce subito a spegnere, il tasto per spegnere riesce. Mentre prima io non me ne accorgevo, lì aggiungavi di chi c'è, era il ball, andava la telefonata. E non avrei messo così. No, io c'ho un sistema nel mio che praticamente un fianco è un tasto che si affianco, lo sfiori e ti spegne il telefono, non è che te lo spegne del tutto, ti spegne il display. Praticamente così facendolo non si muove da solo, non passano telefonate, non succede nulla, lo blocca, è una specie di lucchetto che c'è. E poi quando devi suonare tu rispondi tranquillamente eccetera eccetera, però fino al momento che ti squilla cosa ti fa da lucchetto, da blocco. Il Galaxy 4 è uguale, come blocco è uguale al mio, c'ha le stesse cose, tu basta che gli dai il colpettino più piano del senso, perché se tu lo tieni premuto ti si riesce a mettere a scritta spini, non devi stare più, devi dare solo un colpo di che mollare. E poi lì c'è a spegnere, c'è a fare internet e tutto, c'è quando lo piace. Sì, c'è tutto. È un telefono completo, fa delle foto e sono eccezionali. Caspa che le fa belle, lo so, le fanno belle quelle. Hai visto la Lumia 920? No, negativo. Il filiale è quello. Oh, è meglio di un Galaxy. Per me è meglio del Galaxy. O si fa l'apporto, si fa, camminando. L'apporto è, non parlo di video, l'apporto che fa. E lui te la fa vedere e ti fa vedere la metà di te che sta camminando e i piedi fermi per terra. La luce. No, io già ne pensavo poche per fare i soldi. Il mio per dire, io la fotografia le raccomando, dico fotografa il tractor, oppure scatta e si scatta la foto. Vocale. Sì, se lo metti vocale. Io non lo metto perché ho paura che partano anche le telefonate. Io l'ho messo vocale, mi diverto, perché mia moglie diceva quella mia, ci avevamo preso insieme, se lo dice lì e non la comanda, no, non gli risponde, invece lo faccio io, gli rispondo, mi divorzo troppo, ma perché, come non lo fa? Provo, è che col suo funziona, ma Gesù non lo fa scattare, te ne immagini. E come mai? E poi gli ha detto un'altra parola e con questa parola qui funziona, con la parola scarta, no? Ah, è evidente che gli ha dato un altro tipo di parola. No, no, io gli posso dire quello che voglio, scarta. Capito? Scatta anche con, dicendo le altre cose, ci sono le parole che li puoi dire, dico sempre scatta perché so che è quella lì che funziona, ma ce ne sono anche altre che li puoi dire e ce la fa. Poi ne fa un bel roba. Internet, solo il fatto che non puoi entrare in internet, quando si può dire andiamo alla tavola, sei così la volta, accendo il telefono, si può usare la banchina, come facevi a volte, prima fumavo, mi accendevo la sigaretta. Ti mettevo su internet, mi guardavo le pagine Facebook, il tuo canto, poi quando mi venivo, tanto non pago sempre lo stesso tante, buca. Sì, alla fine paghi sempre lo stesso, paghi. No, anche io uso così. A volte sono dei stessi punti che c'è qualche cosa aperta, metto un wifi. E mi diverto così, mi diverto, entro in internet così. Però agaccio il mio e dentro di tanto io ho preso quella promozione da 200 e un giga di internet a Puglia. Cosa c'hai? Omnitel oppure Costre? No, Omnitel. No, io c'ho quello da 3. E subito dopo è uscito il Galaxy 5, allucinante, con la stessa tariffa. Lo sai che ogni mese ne esce uno, è tutto per fare soldi quello lì. Vedi che, capita, per dire, il mio costava una cifra, dopo è uscito il 3, si è abbassato, poi è uscito il 4 e ha giù mai di un regalo. Sì, è vero. Io ieri mi sono, stavo tornando al lavoro, alle 8 meno 10, ho detto ma cosa faccio? Torno a casa, esci che vado a fare il vicino, e sono andato a Città Mercato. E ho detto vado a vedere qualche regalino così per Natale, per mia moglie, a vedere cosa gli posso regalare. Sono andato su da Media World. Siccome gli piacciono molto i film romantici, queste cose qua, c'era Titanic in 3D, siccome avevo la televisione 3D, insomma mi pare il regalo uscito, poi ci ho ripensato, costava 30 euro, adesso gli dice, boh, è caro, vabbè, ci ho ripensato, che magari poi ci vado un altro giorno e lo prendo, sempre che la ciappia va. Infatti domani vado e glielo prendo perché ha fatto male a ripensarci. Fatto sta che stavo andando, io ho visto che c'era un complesso al centro tra Bricco e insomma dove c'è Bricco lì, al centro dove ci mettono sempre a fare le mostre. Là. C'era questo complesso, Los Amigos, che stava cantando baila, baila, baila, c'erano quelle canzoni lì, no? Mi sono fermato un po', e non ti basta, mi mollieri come figlio. E dice, anche noi eravamo qui, stavo comprando qualche cosa a Marcolino, e poi stavo tornando a casa, detto, e poi questa amica dice, mi ha detto che c'è Pucci stasera, e c'era Pucci, poi c'era Giuseppe Masia, e si è risalito e siamo fatti. Ah bene, come ti mai Giuseppe Masia? E Pucci è quello che lo conosce a Pucci, che è quel milanese che fa il comico a Colorado, eccetera, eccetera. No, non lo guardo quello. E comunque è famoso, là. E praticamente poi hanno presentato, cos'è che la direttrice è quella che coordina Sassari e Urbia, sono tutte e due donne a Città Mercato. coordina Caccia di Urbia. Sono tutte due donne, quelle di Città Mercato. Allora, prima si è presentata la direttrice per ringraziare tutto il pubblico e per dire che questo spettacolo è stato organizzato a Città Mercato per dare un sorriso ai clienti e ringraziarli per le compere che fanno, eccetera, eccetera. E poi hanno presentato quest'altra ragazza che è di Sassari e si occupa praticamente della direzione, di dirigere sia Sassari che Urbia. E questa qui era praticamente la moglie di un mio ex collega. Non è carriera, quella ha fatto una bella carriera, ha fatto la direttrice, perché coordinare quella io mi sono dinamico. Vabbè, vuol dire se lo meritavo, io sono contento, perché è una persona semplice, eccetera. Ma dico, tutte e due donne, ragazzi, no, io pensavo che fossero dei maschi, però invece sono tutte e due donne, non per discriminare donne, per carità, però la mia idea era quella, capito, che ci fosse una figura maschile, invece no, sono tutte e due donne, ragazzi, che coordinano, e hanno ringraziato tutti, hanno detto che Città Mercato voleva dare questo tipo di incontro con i clienti per ringraziarli di tutte le cose che comprano, eccetera, eccetera, di essere fedeli a Città Mercato, ecco. Ci hanno fatto uno spettacolo che era un bel di niente, e io ero in prima fila, se lo sapevo mi avrei portato la macchina fotografica, ma sono capizzato lì per caso, credimi, non sapevo nulla. E quando faccio così, che non sai niente, ti trovi lì e arriva tutta questa roba, figurati, come fai a sapere? Va bene, va, ci andiamo a dormire, ce ne andiamo. Sì, vabbè, abbiamo mangiato due pizzette lì, ci siamo arrangiati e ci abbiamo fatto lo spettacolo. Vabbè, dai, ci sentiamo, buona giornata per domani, se vai a tabaccare con tabacco, io ci devo andare, purtroppo questo qui per me è un periodo un po' critico. Questo periodo ci avete la buona, no? Ma che? si trotta. No, io devo fare domani pomeriggio, devo fare. La mattina l'ho fatta oggi. Domani devo fare pomeriggio, poi dopo domani faccio la notte e me ne vado di nuovo a riposo. E lui non è pesante, dai, quando ci hanno fatto questi turni molto più leggeri. Passiamo più tempo a casa, si può dire, che c'è il lavoro. Solo che cosa succede? E quando si è a riposo ti arriva la telefonata, puoi scendere, ho bisogno di là e fanno scendere, capito? E poi te la fanno recuperare di nuovo? Ma o me la pagano oppure me la fanno recuperare. E allora ci va bene, là. È un po' una rotta di scatola, ma ci va bene lo stesso. E beh, com'è questa ditta fa? Ancora così, questa è entrata il 16 del mese scorso, è entrata e sta già rompendo la scala, perché ci doveva dare il soldi il 10 e non ce l'ha più ancora, non ce l'ha. Adesso se non ce l'ha domani vediamo cosa succede. Tutti la stanno tirando dal 5 al 10, poi dal 10 al 15, tra poco si migliora di tutti i mesi. Infatti. Avevamo trovato un mese di cosa posso, no, non esiste. Infatti avevamo la riunione l'altro giorno con loro, con la presidenza, e adesso ci avevamo la riunione ieri la sabato. Sì. Avevamo col sindacato, ci avevamo per decidere tutto, adesso le decisioni le abbiamo prese noi, le deve dare a lui e lui le deve rispettare. Beh, certo. Con contratto è contratto, non è che ognuno può giostrarsi come vuole, e adesso tutti quanti con la scusa di due crisi, tutti approfittati, sia che te li possono dare, sia che non te li possono dare, fanno lo stesso gioco. Sì, però già lui ha firmato il contratto, non si gli ha fatto, ha firmato il contratto che doveva rimanere tutto com'era, come è stato fatto un passaggio diretto, e non dovevamo perdere niente, né anzianità, niente, perché se perdevamo tutto quello, se succede qualcosa che chiude, fallisce, non abbiamo neanche mobilità, non l'abbiamo in quella maniera là. Mentre in questa maniera ci abbiamo la mobilità, ci abbiamo tutto, ci abbiamo l'anzianità, ci abbiamo tutto, ci abbiamo. E nel foglio che lui ha firmato c'è scritto che tutto quello che ci avevamo prima rimane come era prima. Cioè, tutto quello che è adesso e prima rimane tutto uguale. Cosa vuol dire quello? Se rimane tutto uguale, anche la paga deve rimanere uguale. Certamente sì, se poi vi voglio dare di più posso anche farlo, vero? Se ci vuoi dare di più non è un problema, però certo, lui deve rispettare anche il contratto, deve rispettare. Adesso domani vediamo cosa succede, perché se domani non ci sono nessuno, domani mattina chiamiamo il sindacato e facciamo la sua agitazione. Che sindacato ci avete, CGL? Stappa. Sì, anche lui. Adesso sono bravi. Forse che ci avete voi come cappuccia lì della CGL? Arnaldo Boito. No, noi ne abbiamo un altro, perché noi facciamo parte del commercio, quindi è un'altra cosa. Un altro ramo, non è lui. Ma comunque se mi sembrano abbastanza simili la CGL, mentre la CISL meglio non parlare. Chiaro. No, è abbastanza, sembra che si siano comportato bene, sta dando da fare anche questo, cosa dirgli? Non gli possiamo dire niente, dai. Vabbè, adesso devi fare il loro lavoro, perché i suoi soldi se li prendono mensilmente. Ma prima comunque il sindacato era più combattivo, adesso rimane più l'acqua di rose, rimane più diciamo che se lo comprano come hanno fatto con quello che c'era prima da lui, che prima era il nostro sindacalista e lui è passato da Eti. Sì, va bene, però c'è una cosa anche già. Se tu parli con noi, tu sindacalista, parli con noi, se tu mi dici a me di fare delle offerte che di chiedere quello che ci spetta, noi ti diciamo, noi vogliamo questo e questo, non vogliamo niente in più, quello che ci avevamo vogliamo, abbiamo detto. Lui non me la può venire a dirmi a me, no, non va bene perché bisogna fare come dicono loro, allora cosa vuoi tu? Tu puoi fare di bene a tutti, ti mando. Ti gioco un bagnetti, ma fa piacere l'università è? No, non esiste. Infatti, anche a me mi hanno detto così, non sono tempi di lottare, ora perché cosa sto pagando? Se a me mi devono dare delle cose, tu non me le fai ottenere, perché cosa ti sto pagando io? Lo so, ma ci sono cose più urgenti, c'è gente che la stanno licenziando, dobbiamo. Allora fatti pagare da chi, se a me non mi domanda più nulla che subito se non mi stai tutelando, non ho capito. Così mi dicevano, la CGL. Allora bastava dirgli. Guarda che ti do i soldi solo quando mi stanno licenziando. È una cosa allucinante. Le fortune a me me lo devono pagare il 30%, me lo devono pagare la ditta, il 70% invece me lo devono pagare l'infortunio sul lavoro, perché ho avuto l'infortunio sul lavoro, mi hanno anche operato al ginocchio, avevo legamenti e il coso plasma, come si chiama. E insomma, sono stato operato, sono stato 3 mesi in infortunio, che avevo le stampelle, ho fatto fisioterapia e cose. Poi fatto sa che mi ha pagato solo l'infortunio, la vita non mi ha pagato, non me li hanno mai fatto ottenere quei soldi. Tu figurati che io ho stesso fatto 3 mesi di infortunio e non ho ottenuto niente, perché gli ha presi la vista, gli ha presi, ha fallito e non mi ha dato niente. Adesso siamo in edilizia, ho messo l'avvocato, ho messo liquidazione, tutto, e vediamo un po' cosa esce. Piano piano qualcosa lo stiamo recuperando. Che poi tra l'altro non era dipeso da me, a me mi ha fatto cadere una commessa, lo sai, ho fatto un bilico di equilibrio, avevo finito di scaricare le anguie e c'era rimasto il bilico sopra il furgone e io per farlo scendere mi sono inchinato per farlo scendere piano piano, per farlo scendere di colpo, questa commessa ha preso, ha tirato il bilico, non mi ha visto che ero inchinato e sono riuscito diretto al bilico, ho fatto canestro, sono caduto dal furgone e sono caduto dentro. Guarda, non importa come te l'hai fatto l'infortunio, o colpa di uno, colpa dell'altro, colpa di quello, una volta che tu fai l'infortunio sul lavoro, vai tranquillo, ti bagar maragana, ti bagar. Perché a me lo stesso mi hanno chiesto un casino di cose, è arrivata la sicurezza, mi hai chiesto a poco ieri, perché eri lì, perché ero, che ti avessi di andare lì, perché io ci lavoro lì, perché non ci devo andare? E hanno avuto un casino di discussione, hanno avuto, ma lui mi ha detto, vabbè, tutto a posto. Gli altri vogliono bucare in macchina, mi sono bucato nel tribunale, lui, ciao e arrivederci. Ma poi forse non so se l'hai conosciuto quello di dottore, quel medico bastardo. Ma quale riporto porre? Il riporto dottore, sì. Che ti diceva, domani lo faccio rientrare, non c'è nulla, questo e quell'altro, poi faceva l'ecografia, io stesso loro mi fanno fare l'ecografia, chi tu, ho detto, già lo credo che non riesce a camminare, c'è il menisco spappolato, 3 legamenti, 2 staccati e 1 che sta per staccare al 50%, non credo bene, deve essere subito operato lì. No, non lo so se era riproduttore per quello, è quello lì, ma certo, quello che dove andavo io sempre diceva che potevo rientrare, io avevo questi legamenti del piede tutti strippati, che avevo, e c'avevo tutti i gruppi, e quello là che diceva sempre, e chissà che la prossima settimana lì può rientrare, e lì a 3 mesi di giorni mi riuscì. E anche a me così faceva. Poi mi ha fatto mettere sul letto, mi ha detto la visitiamo, facciamo vedere, questa maglia bianca che mi ha fatto vedere l'esterno, ho dato un grido proprio come con un cagnotto a faccia, bastardo. Dov'è? Non è anno di pazienza, e via. E vabbè, ora ci vuoi fare. Allora, comunque già, dove lo fai di fortuna, se stai lavorando. Anche se lo fai salendo nelle scale dei clienti, tu, al lavoro che fai tu, sei sempre bagato, perché sei infortunio, se fai quel tipo di lavoro tu, e l'infortunio entra. Sì, è vero, ma non so quante cose contano, le scarpe che c'hai, sempre dire, hai scarpe con il fondo in cuio, non si baga. Vabbè, ho antinfortunisti che ho scarpe tipo scarpe da tennis. E tu cosa usi? No, io scarpe da tennis, prima già li usavo quelle del fondo in cuio, perché se scivoli ti fai male con le scarpe in cuio non si baga, le usai. Sì, vabbè, a parte le scarpe in cuio, le scarpe da tennis non si pagano lo stesso. No, le scarpe da tennis sì. Le scarpe da tennis posso usare, quelle da trekking si possono usare. Non lo so, perché si sa che bisogna usare in qualsiasi punto dove uno lavori, bisogna usare le scarpe, a parte che se c'è in ufficio no, perché in ufficio è un'altra cosa. Se non devi usare le scarpe antifortunistiche, quando tu manovri pesi, questa cosa qua. Ma lo sai, se sei andato tanto lontano sabato, cosa mi successe? Stavo scendendo la pedana dell'acqua col muletto e non mi ero accorto che c'era una pedana dietro, col trasparirizio, con col muletto. E non mi ero accorto che c'era una pedana di acqua che aveva messo il mio collega dietro. Adesso sono rimasto col piede incassato tra il muletto e la pedana, che se ne ha dolori. Meno male subito l'ho mandato avanti, ha due dolorito. Gli alluminio, specialmente vabbè, quelli lì stingono, quando se tieni il tutto a terra acceso. E meno male l'ho mandato subito avanti, ma cazzo per dire. E me l'ho preso con mio collega, che cazzo hai visto che stavo manovrando e tu mi si muove la pedana da lì, non ho capito, devi stare attento. E vabbè, non ci ho pensato, pensaci la prossima volta, il collega non ti ha invitato lì. E queste cose bisogna stare attenti, perché guarda che il muletto è pericoloso, a parte che quelli lì c'hanno anche quello manuale, e c'ha anche cose di sicurezza, tutto quanto, però secondo come lo giri continua a andare. Ma io guido tutto, guido muletto, guido il traspare elettrico, però quello elettrico si è a piedi, non te se di chi si deve andare a piedi e tornare indietro, come tu torni indietro col muletto devi tornare indietro anche con i bidi, è normale, non sono tipo un isotto, ed è anche veloce, devi stare attento. E che muletto ci ha messo lì? A motore o elettrico? No, tutti elettrici ce l'abbiamo noi, non le possiamo usare a motore all'interno. Noi invece abbiamo un motore, quello che uso io è il motore per caricare gli articolati. Ma tu lo usi esternamente? Esternamente e internamente. Ma sai che quelli a motore internamente lo si può usare? Invece la ditta non te li compra, io li ricopra e li lascia quelli a motore, però fumano e fanno, non fanno niente, è tutto arieggiato. Sarà di chi si ma di chi si antico. Guarda, quello che ho io, non penso, sono tutti moderni, comprati l'anno scorso, no, non l'anno scorso, 2 anni fa li hanno fatti, tutti moderni, io, quello che ho io, tutti alzi dal civile e camminando ci blocca. E anche il mio. Il mio c'è i giusti, pare che si giochi al televisore con i giochini. C'è i giusti, la marcia avanti, la marcia indietro, tutta giusti. Ah, ma tu c'hai quello che c'ha le porte al fianco e tu c'hai dentro la gabbia? No, forche davanti. Davanti le forche e c'ha praticamente c'ha i giusti che tu come ci si ricammina, se tu per dire lo vuoi farlo camminare in altre maniere non anda nessuno, devi sedersi perché sennò non pone in moto nulla. Sì, devono essere così, con sedersi di sicurezza, devono essere così, infatti io a volte me ne scendo. Quando sono in fretta me ne scendo le ancora di avere, come ti metto il culo, così lì mi blocca. Sì, sì, è così. Sono adesso, vabbè, io quando noi li abbiamo avuti a motore, abbiamo avuto quegli OM antichi, blu mastodonti, c'è uno di quelli, lo stava guidando un ragazzo che tra l'altro non era nostro collega, ma l'aveva chiamato lui per darci una mano perché c'erano tre autoarticolati da scaricare, uno dei quali era di zucchero, io stavo dicendo dove mettere la roba, stavo organizzando il lavoro, questo qui ha pigliato, ha sbagliato a buttare la retromarcia e l'ho messa buttù sotto, adesso figurati se non so se sono pericolosi, mi ha fatto un bagno fiato sul rubino, che se mi c'è ancora lo so fuori, nel piede. E il corso fatto fare però? Il muletto. E io. No, il corso no, la verità. Ma l'ho sempre guidato il muletto, no. Io prima ho lavorato all'attivi, a Sassari, trasporti europei marittimi internazionali, faccio per carichi col muletto, io ho imparato lì a usarlo. Ma adesso c'è l'altro che sta girando, da noi ci hanno fatto fare il corso, ci hanno fatto fare, perché non lo si è patentito. E gira l'altro, se ti becca senza patentino secondo lui. Lo so, perché una mia collega aveva lavorato a Città Mercato e aveva preso questo patentino, me lo ricordo che me l'aveva detto. Sì, sì, già, è obbligatorio adesso. È obbligatorio, se no non lo puoi neanche toccare, non lo puoi, è stato piacere. E la tua azienda ti deve mandare a fare il corso, ti deve organizzare lui e mandarti a fare il corso. Per dire, siete due o tre, tutti e due o tutti e tre vi deve mandare a fare il corso, perché se vi becca l'asi sono dolori. E cosa ne fanno fare? Una roba manuale. Ma niente, noi siamo andati e c'è questo qua, ne sapevo anche lui di lui, di questo ingegnere, che per voi. E ci ha detto delle cose come funzionava il carrello, che poi non capiva niente. E basta, e ha fermato. Poi, non lo so, in altri posti ho visto che fanno... Allora, l'altro giorno li ho visti lì a Sassari, per Danieda, che mi faceva usare il carrello. Io lo so usare, non c'è problema. Appunto, uno che non sa usare, che problemi c'è? Anche se mi mette lì a me a dire, ma fammi vedere come fai a caricare. Sono 30 anni che arrivi, dura più poco. Vabbè. No, noi ne abbiamo avuto diversi, i muletti, questo qui l'ultimo che abbiamo avuto, c'ha tutti i joystick, per andare avanti devi mandare i joystick in avanti, per andare dietro i joystick indietro, laterale ti trasla le forche a destra e l'altra a sinistra, e poi le abbassi in giù e te le tirate verso di te, quelli sono i movimenti che fa. Vabbè, ce ne sono di tanti tipi, ce ne sono. Per esempio, adesso questo che ho io è a leve, tre leve. Cioè. L'altro che avevo prima aveva i tacchi, tre tacchi. No, quattro tacchi, perché quello là potevo usare anche le cinque. All'inizio mi ha dato un po' di fastidio, poi era come schiacciare dei tacchi normali. Era facilissimo. Io ho usato anche quella motore, quello con le marce, un casaggio a fumo allucinante. No, io il fumo non lo fa, non è fanno, questi hanno una vita catalitica, sono proprio all'avanguardia, sono bellissimi. Sono nuovi, è normale che siano l'ultima generazione. No, anche noi quello che abbiamo, l'ultimo è nuovo, e anche quel traspare elettrico è all'avanguardia. E ogni tanto viene il manutentore, lo controlla, lo vale, e vengono da nuvola addirittura sistemati. Dell'assistenza sono quelli che la ditta li manda, magari gli altri. La roba li ha comprati, dai, mandano la sistema. Ecco, poi mi pare che sia solo loro in Sardegna, fa tutta la Sardegna quello lì. Il nostro è, vabbè, c'è una marca tedesca, non si compra di nulla come te, inizia con la Y, e poi non mi ricordo cosa sia. Comunque, quelli lì, viene questo qui da loro, questo ragazzo, infatti molte volte dice, già che c'è che è tardi, a volte podcast, lo lasciamo all'una e mezza, ritorniamo alle 5 ancora in chivi, poveraccio. Vabbè, non è mangiato nulla, no, aspetta che si faccia un po' di panini, li rifacciamo, vediamo una birra, una cosa, a mangiarsi qualche cosa, perché molte volte sono lavori lunghi, per non portarselo via, rimane lì, c'ha i pesi, li ricambiamo, ma magari sono lavori molto lunghi, capito? La rivolta a mezzo gozzo. L'altra volta lo stesso non funzionava, non saliva su, non scendeva, ha dovuto cambiare un pezzo, ha dovuto smontare mezzo trasparto. Senti, esatto. No, i nostri sono tutti Toyota, bella Toyota. C'ha come tipo braccio basso, però c'ha 6 metri di braccio in sollevamento, cioè. Già, va bene. Meglio che non bisogna perdere che si pesi dalla Turcia che ondula un bel, no? Ma no, è che qui prendiamo la caccia una a una, perché quando la solleviamo, a parte non la solleviamo mai a quella testa, massimo che la solleviamo un metro e mezzo, 2 metri, la solleviamo. A 6 metri non possiamo mai. Quando capita la possiamo salire anche a 4 metri, quando stiamo stivando all'interno. Però non dondola, perché c'è una zavorra bella grossa. Io mi ricordo che il nostro, quando al capannone mettevamo la roba negli scaffali, caso una volta era giovata a vetta, sono andato a prendere una pedana di latte e mi si è troncata la pedana, spaccata in due al centro, tutti trovati in terra, ragazzi, e proprio quel momento arrivi dello principale, ui. Adesso te lo paghi, ci metti le mani in tasca, a caso con l'idrante ho dovuto pulire il capannone al gasino. Quando ho capitato così, quello non è da... Sì, quello è perché mettiamo a volte, come noi lo stesso, no? Prendiamo delle pedane marce che sono rotte e ci mettiamo del peso sotto. Invece no, se tu la pedana la prendi, la guardi, o gli metti una pedana più nuova, o quella rotta, buttala via, non ne fai niente, oppure quella debole. Allora sono arrivato a te dall'ascensore del latte così, le pedane, io avevo scaricato un altro treno, l'ultima pedana che ho messo in alto si è spaccata al centro ed era di quelle fine. Il tuo principale doveva finalizzarsi da chi li ha mandati. Ah, ma poi non me l'ha fatto pagare la verità. Mi sono stato messo in gatto pensato lui se no, magari avrei capito. Anche se una pedana è solo un bel poco di via, magari è riuscito a farsi tornare in su, non lo so, ma qui a loro ne comprano un altro treno di roba anche se ne regalano i 2 o 3 pedali. Sì, figurati. Va bene, già, dai, che certo, come si dice. Se la riascoltiamo tutte le cucine, no? Fa piacere di fare una chiacchiera. Ciao, ciao, fra buonanotte.